Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Dopo gli scontri di Via Padova, Bossi frena no ai rastrellamenti, Maroni propone evitare concentrazioni etniche in un solo quartiere. Scontro frontale fra treni di pendolari appena a sud di Bruxelles, le vittime sono 20. Dall'inchiesta sulla protezione civile arrivano nomi di politici, in Parlamento cresce il fronte del no alla SPA. Maxi rapina in una banca in centro a Milano, due banditi travestiti da guardie giurate e armi in pugno rubano 4 milioni di euro. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione. A dominare il dibattito pubblico dunque ancora le violenze dei giorni scorsi in via Padova a Milano e dunque il tema dell'immigrazione e dell'integrazione. Visioni diverse anche all'interno della stessa Lega, mentre il ministro Maroni fa una nuova proposta, un punto politico da Vincenzo Miglietta in diretta da Montecitorio. Vincenzo. Sì, buongiorno. Il centrodestra frena oggi sulla questione immigrazione dopo i primi commenti a caldo soprattutto degli esponenti locali della maggioranza. Non si risolve un problema come via Padova con i blitz e le camionette, dice il ministro dell'interno Maroni, che spiega i clandestini vanno espulsi, ma la soluzione non è lo stato di polizia. Da qui la proposta del responsabile del Viminale: necessario, far capire Maroni, cambiare passo nelle politiche di accoglienza e di integrazione. C'è da gestire un problema sociale, aggiunge il ministro, nel futuro dobbiamo evitare le concentrazioni etniche in un solo quartiere. Di fatto, afferma Maroni, dobbiamo definire le condizioni per cui un extracomunitario regolare possa integrarsi davvero. A dettare la linea della Lega è anche Bossi, che boccia l'idea dei rastrellamenti avanzata dall'europarlamentare del Carroccio Salvini. Lasciamoli stare, dice il ministro delle riforme. In generale la maggioranza critica la gestione del fenomeno dell'immigrazione condotta negli anni dai governi di centrosinistra. Partito Democratico e l'Italia dei Valori replicano: i fatti di Milano sono il segno evidente del fallimento della politica di integrazione e sicurezza del governo. E da Roma è tutto. E grazie Vincenzo per questi aggiornamenti. Questa è la reazione della politica nazionale dunque, ma quella meneghina come sta reagendo? Anche di questo si è parlato stamattina ad un evento al quale erano attesi Roberto Formigoni e Letizia Moratti. Lo ha seguito per noi Stefano Totoro. Stefano. La soluzione non è lo stato di polizia, dice Maroni, ma il problema a Milano sembra solo di ordine pubblico. Con il Premier e con il Ministro dell'Interno il Comune ha concordato, ma in realtà era già tutto previsto, un aumento delle forze dell'ordine. Così poco fa il sindaco di Milano Letizia Moratti. Noi continuiamo a lavorare naturalmente in stretto contatto con le forze dell'ordine, lavoriamo sui temi di sicurezza che non sono i temi di ordine pubblico. Già probabilmente da domani ci sarà un primo contingente. È importante che ci sia una forte collaborazione anche con la magistratura, perché la clandestinità è diventata reato. Purtroppo stiamo pagando delle politiche del centrosinistra, che sono politiche che hanno portato a un'immigrazione non controllata. Il sindaco dunque scarica la responsabilità anche sul precedente governo e invoca l'intervento della magistratura. Il presidente della regione Roberto Formigoni: mi auguro processi brevi, ha detto il governatore lombardo, che portino alla punizione dei colpevoli fino all'espulsione. In ogni caso Formigoni minimizza su quanto successo sabato sera in via Padova: è stato un incidente non preventivabile, ha detto il presidente della regione, come purtroppo capita in ogni parte del mondo. Per il momento è tutto, a voi. E grazie Stefano Totoro. C'è qualcuno che forse impropriamente ha paragonato la vicenda di via Padova a quella delle banlieue parigine. Ma com'è la situazione in Francia? Sentiamo. Si dice viale Padova, ma si può benissimo pensare alle banlieue francesi, fatte però le debite proporzioni. In Italia un crimine è degenerato in tafferugli violenti, ma piuttosto circoscritti. Alla periferia di Parigi era il 2005 una rivolta su larga scala, quartieri in fiamme, una guerriglia urbana. Potrebbe succedere anche da noi. E che cosa stanno facendo le autorità francesi? Perché in questi quartieri classificati come zone urbane sensibili, oltre 700 in tutto il paese per 4 milioni e mezzo di persone, che altro non sono se non ghetti dell'immigrazione e polveriere sociali, non esplodono? In materia di accoglienza, espulsione e regolazione dei flussi migratori, la Francia si appresta nei prossimi mesi a varare il quinto o sesto progetto di legge degli ultimi 5 o 6 anni, ovviamente più restrittivo dei precedenti. Nel 2008 ha presentato un piano Espoir Banlieue che prevede massicci investimenti pubblici per creare più occupazione, ridurre le disparità sociali e accrescere la scolarità dei giovanissimi, infine aumentare la sicurezza. I risultati al momento latitano, anche perché in realtà le periferie francesi sono oggetto di imponenti piani d'aiuto statali dal 2003. L'ultimo osservatorio nazionale delle zone urbane sensibili, pubblicato in dicembre, è piuttosto desolante. Nonostante gli sforzi, il divario tra questi quartieri e il resto della Francia si è accentuato in termini di povertà, disoccupazione e scolarità. Forse non è una politica da seguire per l'Italia, ma è un caso da studiare attentamente per evitare gli errori che hanno trasformato alcune zone, a una decina di chilometri da Parigi, in terra di nessuno. Attilio Geroni, GR24, Il Sole 24 Ore, Parigi. Ci spostiamo a Bruxelles per gli aggiornamenti sullo scontro fra treni che ha fatto almeno 20 vittime. In diretta Igor Fiatti. Igor. Sì, buongiorno. Si aggrava il bilancio dell'incidente ferroviario avvenuto stamani vicino a Dal, un sobborgo a una ventina chilometri a sud di Bruxelles. Le ultime informazioni infatti parlano ormai di 25 morti e non più di 20 come in precedenza, decine i feriti. Stando alla ricostruzione, alle 8.30 due treni passeggeri della linea Mons-Bruxelles sono entrati in collisione mentre sulla zona imperversava un'intensa nevicata e secondo alcune fonti un altro convoglio, forse un treno merci, sarebbe rimasto coinvolto nell'incidente. E mentre i soccorritori sono al lavoro per liberare le persone ancora intrappolate, le ipotesi sulle cause dello schianto sono essenzialmente due: o è stato un errore umano, un semaforo rosso non rispettato, o un difetto tecnico, un guasto ai freni. Intanto ovviamente il traffico ferroviario da Bruxelles verso il sud-ovest del Belgio è bloccato, bloccata quindi anche la rete per la Francia e la linea Eurostar per Londra. Per ora è tutto, linea Milano. Grazie anche a Igor Fiatti. Un altro disastro, i cui contorni rischiano di essere ogni ora più ampi, è quello della provincia di Messina, dove una frana minaccia alcuni paesi. Molte delle 1.500 persone costrette ad abbandonare le loro abitazioni stanno guardando da lontano il lento procedere della frana che a San Fratello, nel Messinese, sta raggiungendo le loro case. Il paese era stato già colpito gravemente nel 1922 da una calamità simile. Quella volta erano stati rasi al suolo i quartieri della parte nord del paese. Questa volta lo smottamento ha colpito invece la zona sud-est, quella di nuova espansione edilizia, in particolare i quartieri Stazzone, Riana e Fontana Nuova. Il rischio è che a San Fratello si formi un paese fantasma. Questo ci ha raccontato il sindaco Salvatore Sidoti Pinto. Purtroppo c'è una situazione veramente drammatica, soltanto veramente chi è qui può rendersi conto anche la compostezza anche di tutti i sanfratellani. Stiamo cercando riparo, rifugio verso amici, parenti, verso qualche albergo, qualche cosa. Cos'è che potete fare? Solo aspettare e sperare che venga giù? Soltanto aspettare che il buon Dio ci dia una benedizione, perché tecnicamente non c'è nulla da fare. Peraltro continua a piovere. Si lavora sotto una pioggia battente, dunque, che mette a rischio anche altri comuni. Ci sono frane e qualche famiglia evacuata anche a Librizzi, Tusa e Sant'Angelo di Brolo. È stato di allerta per rischio idrogeologico anche a Messina, nelle frazioni di Giampilieri e Scaletta Zanclea, colpite dall'alluvione del 1 ottobre scorso. Cristina Carpinelli, GR24, Il Sole 24 Ore. Cambiamo decisamente argomento, andiamo a Barcellona, dove apre la kermesse della telefonia mobile mondiale il nostro inviato Enrico Pagliarini. Enrico, quali sono le novità di oggi? Buongiorno, per ora si parla prevalentemente di software, segno di come sta cambiando questa industria. Gli smartphone stanno diventando sempre più importanti, anche se per ora stiamo parlando di prodotti costosi che rappresentano circa il 14-15% del mercato mondiale, ma per il momento gli annunci sono quasi tutti sul software. Ieri sera ha iniziato, anticipando un po' tutti, Samsung, che ha presentato un proprio sistema operativo chiamato Bada. Lo vedremo a partire dai prossimi mesi su un telefono chiamato Wave, un telefono touchscreen molto fluido all'utilizzo, almeno dalla prima sensazione. Questa mattina, poco fa, c'è stato un annuncio fatto assieme da Intel e Nokia, che hanno presentato una piattaforma, così la chiamano, ma di fatto è un sistema operativo basato su Linux, quindi aperto per il futuro dei propri smartphone, ma aperto anche da altri produttori, che si chiama MeeGo, che in pratica continua la strada lanciata da Nokia con l'N900, lanciato da poco. E sempre a proposito di software, oggi pomeriggio alle 15 ci sarà un annuncio da parte di Microsoft. Alcuni pensano e alcuni hanno detto che Microsoft presenterà Windows Mobile numero 7, ma vedremo appunto oggi pomeriggio. Per quanto riguarda i prodotti, per il momento molto pochi, ci sono poche pochi telefoni presentati qui alla fiera più importante mondiale della telefonia mobile. A voi la linea. Grazie Enrico Pagliarini, noi passiamo a parlare di televisione. Nulla di anormale. No, nulla di anormale. Fatto è che io gli ho risposto, guardi signore, mi dispiace, ma purtroppo stamattina le brioche sono già terminate. Al che lei mi fa, dice, vabbè, allora guardi, fa lui, no? Dice, visto che le brioche sono già terminate, faccia una bella cosa. Non mi dia neanche il cappuccino, perché deve sapere che a me il cappuccino, senza la brioche, a me non piace. Dice, faccia una bella cosa. Beh, la voce la riconoscete, è morto ieri sera all'ospedale di Lavagna, dopo un doppio intervento per un aneurisma alla aorta, l'attore comico genovese Gianfabio Bosco, noto come Spalla nella celebre coppia Rick e Gian. Aveva 74 anni. A dare la notizia della sua morte il grande amico e compagno di lavoro Lino Banfi, lo ha intervistato Adriana Fracchia. Era l'unico del mondo dello spettacolo che io frequentavo, nel senso che lavoravamo insieme, abbiamo fatto per tanti anni, da quando poi, già prima che stava con il suo affiatatissimo Rick, con la coppia famosa, eravamo sempre amici, facevamo lo stesso lavoro, abbiamo fatto un spettacolo per tanti anni, quindi grande amicizia. Lui lavora da quando era bambino, quindi era una delle migliori spalle che esistono, nel senso che insomma il termine spalla, che è un termine che molti giovani non conoscono, è l'attore che sta a fianco ai comici, che senza di lui poi il comico è difficile che faccia ridere, perché è il promotore di tutte le gag, di tutte le risate. È lui che era abituato a farlo, l'ha fatto non solo con Rick, ma l'ha fatto con Villaggio, con altri grandi, come faceva anche Gianni Agus e tante altre spalle. Poi ha lavorato con me quando si era diviso con Rick, pur rimanendo sempre amici, per carità. Ha lavorato con me, ha fatto uno spettacolo grande in teatro che si chiamava Arcobaleno, abbiamo fatto insieme delle fiction, io lo chiamavo spesso a lavorare nelle mie trasmissioni, abbiamo fatto insieme una trasmissione che si chiamava Gran Casino, insomma grande amicizia e grande affiatamento in scena, quindi è stata una perdita molto forte, perché l'ho sentita vicina, momento per momento, seguita la malattia giorno per giorno, e insomma brutto momento. Le 13:15 minuti 49 secondi nella prima parte del giornale radio abbiamo parlato di immigrazione, delle reazioni politiche dopo gli scontri che ci sono stati nel fine settimana a Via Padova a Milano, abbiamo parlato dell'incidente ferroviario che c'è stato in Belgio appena a sud di Bruxelles con una ventina di vittime, abbiamo parlato anche delle frane che ci sono state nel Messinese, poi abbiamo ascoltato l'intervista a Lino Banfi sulla morte di Gian Fabio Bosco, noto come Spalla nella celebre coppia Rick e Gian. Adesso ci occupiamo di protezione civile. Con gli sviluppi nell'inchiesta che vede indagato il capo Guido Bertolaso emergono nuovi particolari, i primi nomi di politici, sentiamo. Sono un servitore dello Stato, non un pirata anarchico. Con una lettera al quotidiano Repubblica, Guido Bertolaso torna a difendersi dalle accuse nei suoi confronti. Basta fango, dice il capo della Protezione Civile, il quale ricorda che l'operato del suo dipartimento è stato sempre soggetto a controlli da parte delle autorità di vigilanza. Per Bertolaso poi il crescente ricorso alla figura del commissario straordinario è il segno della difficoltà che le amministrazioni incontrano oggi nell'affrontare emergenze e questioni complesse con le sole leggi ordinarie. Nel frattempo dai verbali dell'inchiesta emergono nuovi dettagli sulle intercettazioni, come quella che vede protagonista l'imprenditore Diego Anemone, mentre nel centro benessere Salaria Sport Village è in corso il presunto incontro a luci rosse fra Bertolaso e Monica, una ragazza brasiliana che sarebbe stata ingaggiata per l'occasione. Stasera con Guido ho guadagnato 500 punti, dice soddisfatto Anemone, ma non è tutto perché, secondo un'informativa della Ross, di cui dà conto oggi il Corriere della Sera, ad essere intercettati mentre conversavano con funzionari e imprenditori finiti nell'inchiesta sarebbero stati anche politici come il coordinatore del PDL Verdini, il ministro delle infrastrutture Matteoli e due parlamentari Pepe e Viceconte, anche loro del PDL. Andrea Viali, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. La vicenda dunque inizia ad interessare la politica sempre più da vicino, non solamente per i fatti che ci ha appena riferito Andrea Viali, ma anche per il progetto di modifica della struttura della protezione civile al momento in Parlamento. Sentiamo che aria tira a Montecitorio con la nostra Elisabetta Fiorito. Elisabetta. Sì, proprio così, Simone. Il caso Bertolaso ha come diretta conseguenza politica il decreto sulla privatizzazione della protezione civile in società per azioni, in calendario per mercoledì prossimo nell'aula di Montecitorio. Dopo il no di Gianni Letta arriva anche quello della Lega. Umberto Bossi è contrario, penso che la protezione civile non debba diventare una spa, non debba sparire, spiega il leader del Carroccio. Riguardo alle indagini sugli appalti pubblici, Bossi spiega che Tremonti aveva detto da tempo, e aveva ragione, quando non ci sono controlli nascono i pasticci. All'attacco l'opposizione, per l'Italia dei Valori l'accantonamento del decreto sarà un fatto positivo, ma bisognerebbe interrogarsi su cosa sarebbe accaduto se nel frattempo non fosse scoppiato lo scandalo. Nel frattempo il Partito Democratico si chiede cosa succederà al provvedimento e chiede anche il ritiro del decreto legge, perché resta soltanto un guscio burocratico per coprire la marcia indietro del governo. La battaglia parlamentare, promettono dal PD, sarà comunque durissima. E per il momento qui da Montecitorio è tutto per studio. Grazie Elisabetta Fiorito, e ci sono aggiornamenti a proposito di vicende di corruzione su quella che riguarda il consigliere comunale di Milano Milko Pennisi. Secondo il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, Simone Luerti, c'è il pericolo che Milko Pennisi inquini le prove. Per questo motivo, l'ex consigliere comunale ed ex presidente della Commissione Urbanistica di Palazzo Marino, accusato di concussione, rimarrà in carcere. La decisione è arrivata questa mattina assieme alla convalida dell'arresto, effettuato giovedì scorso in pieno centro, poco dopo che Pennisi aveva intascato una mazzetta di 5.000 euro dall'imprenditore bresciano Mario Basso. Ed era stato proprio Basso ad incastrare l'esponente del PDL, presentando in procura il filmato riguardante il primo scambio di denaro, altri 5.000 euro, consegnati a novembre. Nonostante le diverse versioni offerte dalle parti coinvolte, il capo d'accusa resta quello di concussione. Per i PM, Pennisi avrebbe chiesto ed ottenuto una tangente di 10.000 euro per sbloccare una pratica edilizia. Questo nonostante la diversa ricostruzione offerta dall'indagato, per il quale sarebbe stato Basso ad offrire la somma incriminata. Una tesi che, se accolta, porterebbe i magistrati ad indagare per corruzione, reato che prevede pene edittali più basse della concussione. Fabio Pisano, GR24, Il Sole 24 Ore, Milano. Restiamo a Milano, dove c'è stata una rapina milionaria in pieno centro, presa di mira una banca vicino a Piazza San Babila. Ci racconta tutto in diretta dal luogo della rapina Marco Lignana. Marco. Sì, buongiorno Simone, sembra proprio essere stato un colpo d'altri tempi quello realizzato poco più di un'ora fa qui all'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiani in Corso Europa a Milano, come avete detto, proprio in centro, a due passi dal Duomo. Come è andato il colpo? In pratica due delinquenti si sarebbero travestite da guardie giurate e sarebbero entrate come se nulla fosse nella banca. Il problema è che i dipendenti dell'istituto stavano proprio aspettando due vigilantes e quindi all'inizio hanno pensato fosse tutto normale. I rapinatori però avrebbero estratto le pistole, chiuso i bancari nello sgabuzzino e si sono impadroniti di un sacco con la bellezza di appunto 4,1 milioni fra euro e dollari, denaro che ovviamente doveva essere ritirato dalle vere guardie giurate. La banca in questione non ha sportelli aperti al pubblico e dentro il palazzo per ora le bocche sono cucite. Davanti all'istituto ci sono giusto le volanti dei carabinieri, i curiosi e ovviamente i colleghi. E da qui è tutto, vi restituisco la linea. Grazie Marco Lignana. Abbiamo parlato nella prima parte del giornale radio delle frane in Sicilia. Ebbene, allo stato sono 180 le frane segnalate, siamo in Calabria, nel territorio della sola provincia di Cosenza, con 27 arterie provinciali ed ex statali precluse sostanzialmente al traffico, e ci sono state varie evacuazioni. Naturalmente prossimi aggiornamenti anche nelle prossime edizioni dei giornali radio, ma noi nel frattempo restiamo in Calabria per parlare però di primarie che sono state vinte questa notte da Gazio Loiero. Sarà Gazio Loiero il candidato presidente del PD alle prossime regionali di fine marzo. Loiero ha infatti ricevuto l'investitura ufficiale vincendo le primarie svoltesi ieri con oltre il 65% dei voti. E proprio mentre si stava festeggiando l'esito delle primarie, Loiero ha deciso di lanciare l'ennesimo invito all'imprenditore Pippo Callipo, candidato per i DV e per i movimenti della società civile, per farlo diventare il suo vicepresidente. E Callipo, ha detto Loiero in nottata, venga a fare il mio vice, perché oggi la presidenza con l'esito delle primarie è diventato un bene indisponibile per lui. Alle primarie, dove Loiero ha sconfitto gli altri due candidati, Giuseppe Bova, presidente del Consiglio regionale, e Brunello Censore, consigliere regionale, anch'egli, hanno votato circa 100.000 persone, ma andare a votare circa 100.000 persone, hanno detto sia Loiero che Bova e Censore, con una giornata terribile dal punto di vista del maltempo, è stata la cosa più importante per rilanciare il PD. Ora il confronto di fine marzo. marzo con Scopelliti, candidato per il PDL e l'UDC, e molto probabilmente con lo stesso Callipo. Filippo Veltri, GR24, Il Sole 24 Ore, Catanzaro. E parliamo di altre votazioni, quelle che potete fare voi tutti i giorni sul nostro sito, il sondaggio di oggi. Nucleare, tema scottante, soprattutto se sei in campagna elettorale e la gente ti chiede: ma qui dovremo fare una centrale? Ecco allora che se dal centro-sinistra il no è secco, dal centro-destra la posizione più sentita in questi giorni è sì al ritorno al nucleare, ma non qui. Noi abbiamo già dato. Luca Zaia e Brunetta in Veneto, la Polverini nel Lazio, Caldoro in Campania, tutti esponenti del centrodestra che dicono sì al ritorno all'atomo, ma non qui, grazie. Tanto che oggi vi chiedevamo nel sondaggio: ma voi accettereste una centrale nucleare nel vostro comune? Ebbene, il 63% di voi dice di no. Un no che il professor Franco Battaglia, scienziato e penna velenosa del giornale, bolla così. Perché siamo un paese di peracottari, che non siamo capaci di prenderci e assumerci la nostra responsabilità. Vogliamo l'energia, però diciamo di non volerla produrre. Ne abbiamo fatto un bene di importazione, anche quello. Siamo il paese che paga l'energia elettrica più alta al mondo. Bianconero torna domattina alle 8.30 per votare radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. L'economia: nel 2009 le esportazioni italiane sono crollate del 20,7% e le importazioni del 22% rispetto al 2008, lo comunica l'Istat, aggiungendo che si tratta dei peggiori dati sui flussi commerciali dal 1970, ovvero da quando esistono le serie storiche. I dati sono stati comunicati naturalmente dall'Istituto di Statistica, secondo il quale nel mese di dicembre si è registrata una lieve ripresa dell'export verso l'Unione Europea con un più 1,4%. Il 2009 è stato l'anno record del recupero dei crediti, come riporta Il Sole 24 Ore del lunedì. La posta in gioco cresce sulla spinta del vento della crisi. Ha sfiorato i 20 miliardi nel 2008 e si è appresta a chiudere il 2009 a un soffio dai 30 miliardi, il doppio rispetto al 2007. Mancati pagamenti di rate del mutuo, carte revolving, credito al consumo e prestiti personali, ma anche bollette di gas, luce e telefono non saldate. Debiti che devono ritornare nelle casse di chi ha erogato il servizio. È la fotografia scattata da Unirec, che riunisce 160 imprese del recupero crediti, pari all'80% del settore. Le pratiche lievitano, ma diventa sempre più difficile portare a termine la missione. Solo un credito su tre viene incassato e dal 2007 al 2009 il tasso di recupero è diminuito di 3 punti percentuali. Nell'intero 2009 il bottino dei crediti rientrati dovrebbe sfiorare gli 8 miliardi secondo le proiezioni. Per gli altri si apre la strada del recupero per vie legali. Chiara Bussi, GR24, Il Sole 24 Ore. Le Olimpiadi di Vancouver, grazie ai bronzi di Pittin e Zögler, l'Italia è sesta nel medagliere guidato da Stati Uniti, Germania e Francia, ma la giornata potrebbe portarci altre soddisfazioni. Alle 19, appuntamento con lo sci di fondo femminile. Parte infatti la 10 km a tecnica libera con Arianna Follis, Speranza Azzurra, che a Torino fu bronzo nella staffetta. Occhi puntati però anche su Monica Longa. Poi sarà il turno della 15 km a tecnica libera maschile. In pista i pezzi forti Piller Kotrer e il portabandiera di Centa. L'Italia è sempre stata una superpotenza sugli sci stretti e con la Russia sorvegliata e decimata per doping, le speranze raddoppiano. Oggi poi, tempo permettendo, dovrebbe finalmente svolgersi la discesa libera con Hale e Phil a caccia di gloria contro lo svizzero Kusch e la potente Austria. Azzurri in gara anche nello snowboard e nel pattinaggio di velocità e di figura. E chissà se dopo i festeggiamenti si piazzeranno davanti alla TV anche i primi due medagliati italiani di Vancouver, l'intramontabile Zögler, che in 5 edizioni olimpiche è sempre salito sul podio, bronzo quest'ultima volta, e l'astro nascente Alessandro Pittin, terzo nella combinata nordica e primo italiano a trionfare in questa disciplina. Laura Bettini, GR24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questa edizione di GR24, condotta e curata da Simone Spezia, coordinata da Daniele Biacchessi e con in regia Filippo Aureggi. Il prossimo giornale radio alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Gianfranco Fabi.